Cosa si potrà fare a Natale? Non si sa. Le regole nuove, i ritocchini, come li ha chiamati il Presidente del Consiglio per gli spostamenti, non sono ancora stati decisi, ma l'ipotesi più quotata è una zona arancione estesa a tutta Italia, per quanto non sia chiaro in quali giorni. Riaprirà la scuola il 7 gennaio? C'è chi inizia a metterlo in dubbio. E cosa succederà al governo? Non si sa. Rinviato il confronto tra Conte e Renzi, l'ex premier torna a minacciare di ritirare i ministri dall'esecutivo e mette una nuova condizione, l'utilizzo del fondo salva stati sanitario. Ma la crisi non sembra all'orizzonte. Molte domande, poche risposte definitive. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezzi e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Mercoledì 16 dicembre. A grandi passi andiamo verso un Natale nel quale non sapremo come ci potremo effettivamente muovere, quali saranno le regole per gli spostamenti tra comune e comune. Oh, lo dico a... ci fosse mai un rappresentante del governo all'ascolto, sbrigatevi, perché un pochino vorremmo organizzarci. Posto che sappiamo perfettamente che più stiamo a casa meglio è, posto che sappiamo che meno gente incontriamo meglio è, posto che sappiamo che bisogna mettersi le mascherine e rispettare il distanziamento, posto tutto questo, diteci qualcosa, per favore. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, sms, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Come va, come va, come lo state preparando, come vi state organizzando per questo Natale? C'è Peter Bescapè in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione. E inizio però da qualcosa di diverso rispetto alle regole, a tutta la questione delle regole. Poi se ci torneremo, ne parliamo continuamente, perché siamo qua che aspettiamo. Fatemi andare sul polemicone di queste ore di Fedez e di questi 5.000 euro regalati in pacchi da 1.000 euro a tutta una serie di persone girando in Lamborghini. È stato detto un gesto di cattivo gusto. Io stesso ieri ho detto di ottimo gusto non era. Poi ieri è stato anche attaccato da Fabio Volo, che ha detto queste cose si fanno in silenzio, di nascosto. Io però vi devo dire una cosa: a me sti due ragazzi, Fedez e la Ferragni, mi piacciono tanto. Sentitelo Fedez dopo le polemiche, sentitelo. Io non sono il Duca di Windsor, sono un ragazzo di periferia che fa le cose a suo modo, in maniera poco elegante, e sono anche una persona in totale cattiva fede che fa tutto perché ricerca della pubblicità per se stesso. Diamo per scontato questo, perché tanto tutti gli articoli vertono a qualificarmi in quanto uomo. Una volta archiviata questa pratica e una volta che diamo per scontato che io sia una merda, possiamo andare avanti e parlare delle cose importanti? Grazie. Ancora, vai. Lo sforzo disumano di tantissime persone per aiutare più di 40 categorie diverse di lavoratori con aiuti che arriveranno entro Natale. Questa cosa però è stata totalmente coperta dall'ennesimo tsunami di polemiche che mi riguardano. Ancora. E visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato per questa polemica, vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà purtroppo arrivata all'orecchio, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi e a cui io, in questo caso, sì, ho messo mano al mio portafoglio e ho donato 100.000 euro di tasca mia, che non avrei voluto dire, però visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio questa cosa veramente poco elegante di dire quanto ho donato, perché sono una merda, ok? Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. Oh, a proposito di questo, non in realtà a proposito di questo, non a proposito di questo, ma in parte sì. Oggi alle 8.35, ve lo dico, care ascoltatrici e cari ascoltatori, affronteremo un tema parzialmente correlato alla vicenda di Fedez, ma mica tanto, ossia il tema della povertà, dell'incremento della povertà in Italia. Abbiamo tutti negli occhi, al di là di tutto, le immagini delle file a Milano a Pane Quotidiano, abbiamo nelle orecchie i numeri, per esempio, sull'incremento di richieste di reddito di cittadinanza proprio a Milano, e citiamo Milano non a caso, perché è una città particolarmente ricca che sta vivendo un boom importante, un boom economico importante. Segnali di questo tipo, lo scrive anche Avvenire, arrivano anche da Roma, dove l'incremento di persone, soprattutto italiani, che stanno cercando l'aiuto alle mense e ai poveri è fortissimo. Lo segnala Avvenire citando la Caritas. E dunque è il tema che affronteremo oggi alle 8.35. E anzi, se avete la vostra da dire, se volete anche il vostro racconto, se c'è un vostro racconto personale, e se non vi sentite ovviamente di condividerlo, cioè se vi sentite di condividerlo nell'anonimato, sappiate che l'anonimato c'è su questo fronte. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, SMS e tutto quello che volete. Altra questione, la scuola. Ma insomma, avevamo detto si riparte il 7 di gennaio. Ieri qua abbiamo ospitato il presidente dell'Associazione delle aziende del trasporto pubblico locale, il quale ci ha detto sì, stiamo, i tavoli ci sono, stiamo preparandoci, si sta ragionando sullo scaglionamento con i prefetti e via dicendo. E però, a quanto ci dice Gianni Rezza, che ieri è stato il protagonista della conferenza stampa, quella che viene fatta ogni giorno per illustrare i dati del contagio, mica è sicuro che si riparte. Credo che sia ancora presto per dire se potremo o non potremo riaprire completamente le scuole, anche per quanto riguarda le scuole superiori. Perché? Perché intanto noi dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. L'incidenza di nuovi casi è ancora elevata. Se noi abbiamo tanti casi, anche un RT di poco inferiore ad 1, comunque sia produce molti nuovi casi di infezione. Finché non abbassiamo di molto l'incidenza, è difficile parlare di ripresa completa di tutte le attività. Capito? Capito? Già nel governo si sta facendo strada l'idea, a quanto pare, che le scuole superiori non debbano riaprire nemmeno il 7 gennaio. Già sta filtrando questa cosa e siamo, lo ricordo ancora una volta, il paese che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo, e nonostante questo siamo il paese con il maggior numero di morti. Lo vogliamo dire? Ieri altri 800. A proposito di vittime, sta facendo molto rumore il numero del quale ha parlato ieri il presidente dell'Istat, Blangiardo, ospite ad Agorà. Sentiamolo. Non è ancora finito l'anno, quindi stiamo faremo un bilancio alla fine, però è chiaro che la previsione fa pensare che quest'anno purtroppo e facilmente supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Una cosa del genere in Italia era successa nel 1944, quindi l'ultima volta che siamo andati oltre i 700.000 morti eravamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Questi i numeri, e a proposito dei numeri, Walter Ricciardi, che come sapete è il consulente del governo, il consulente del ministro Speranza sulle questioni Covid, ci parla ancora della questione dei casi notificati, cioè quanti numeri, i numeri che cosa ci dicono effettivamente dal punto di vista dei contagi. Sentiamolo sempre ad Agorà. questi casi che sono notificati sono soltanto la punta di un iceberg. Come tutte le malattie infettive, i casi notificati sono soltanto una parte. Nella prima parte dell'epidemia l'indagine sieroepidemiologica evidenziò che nel paese c'erano 6 casi non notificati per ogni caso segnalato. Oggi non credo che siamo a quel livello, ma perlomeno sono il doppio se non il triplo. Quindi significa che questi casi poi un 5% va in ospedale e preme in maniera insopportabile sugli ospedali, e poi soprattutto c'è un dato inequivocabile che non si può nascondere, che sono i morti. E i morti crescono in una maniera impressionante. Impressionante quanto? Ancora Ricciardi. Noi abbiamo avuto 36.000 morti nella prima fase e a tutt'oggi, in un periodo più breve, ne abbiamo avuti già 25.000. Se continua questo trend, diciamo, noi arriviamo a 40.000 morti a febbraio-marzo. Sulla scuola si riapre, riparte ogni volta la discussione, no? C'è un'ascoltatrice che dice: sulla scuola sei troppo parziale, in tutti i casi che conosco il contagio è partito dalla scuola. Ma anche se fosse così, posto che gli epidemiologi ti dicono che non è così e che il problema è semmai fuori dalla scuola, e su quello possiamo essere, cioè, anzi siamo perfettamente d'accordo, cosa succede quando escono da scuola, negli assembramenti, quando vanno, quando utilizzano il trasporto pubblico, va benissimo, ma ammettiamo anche che fosse così. C'è un ragionamento costi-benefici da fare, cioè i costi sociali di tenere questi ragazzi a casa per mesi contro appunto i benefici di avere un'infezione, un livello di circolazione del virus più basso, e quindi magari puoi ragionare se chiudere qualcos'altro e tenere aperte le scuole. Alcuni paesi lo hanno fatto, questo lo ripetiamo dall'inizio: Spagna, Francia, Germania. La Germania adesso le chiuderà per un po' di tempo, e però l'ha tenute aperte praticamente dall'inizio di settembre, perché poi la scuola in Germania inizia ai primi di settembre, a differenza che da noi, quando inizia, in alcuni casi, in alcune regioni, è iniziata il 24 di settembre, dopo le elezioni regionali. È semplicemente questo il punto. Comunque, anche su questo, se volete intervenire, 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio. Le incredibili parole del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, che sono state pronunciate, una voce dal sen fuggita, mi viene da dire. Sentiamole. Come sapete, ci aspetta un Natale molto magro, perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente, che questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi, e lo stanno mettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po' stanchi di questa situazione e vorrebbero alla fine venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza, ma così secondo me diventa una situazione impossibile per tutti. Anche se qualcuno morirà, pazienza, le parole del presidente di Confindustria Macerata. Poi anche qua polemica enorme ieri sui social, Confindustria che alla fine interviene e, secondo indiscrezioni, è stata aperta una sorta di indagine, una procedura sul presidente di Confindustria Macerata, al consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria. Così poi il professor Galli, sentiamo. Badi bene anche lui, che magari, insomma, se è un ricco imprenditore, qualche possibilità di farsi curare comunque al meglio la trova in ogni caso. Ma se, non lo auguro a nessuno, gli venisse un infarto o una altra patologia abbastanza legata allo stress lavorativo, acuta e grave, bene, si potrebbe trovare, anzi male, si potrebbe trovare, come molti cittadini probabilmente si sono trovati, ad avere un minor accesso a quella che è stata l'assistenza che invece in precedenza era assolutamente garantita. E qua c'è un eccellente Massimo Gramellini sul suo caffè sul Corriere della Sera, quel pezzo che firma ogni giorno, un pezzo che si intitola Elogio della reticenza, dice questo in sostanza, vi basti l'inizio, quando abbiamo perso la capacità di tenerci il classico cecio in bocca senza sputarlo addosso a una telecamera accesa? Dice: ci pensavo ascoltando il presidente di Confindustria Macerata dare fiato all'indicibile. Il primo a espormi la teoria degli effetti collaterali fu un lettore, ma non era microfonato sopra un palco e non aveva incarichi istituzionali. Il presidente Guzzini si è già scusato ed eviterei di entrare nel merito della sua affermazione, anche perché spero che non ce ne sia bisogno. Ovvio che rispetto per chi perde la vita alla precedenza. Mi domando piuttosto che cosa ci spinga a dire sempre tutto quello che ci passa per la testa, ignorando gli antichi filtri della prudenza e della diplomazia, scrive Gramellini, Il Traffico. Mattino. E all'ascoltatore che dice questo, ce l'avete con Conte perché dite che sui trasporti non siamo pronti. Guardi che da questi stessi microfoni a questa stessa ora più di una volta abbiamo detto che la questione dei trasporti non è una questione che ha a che fare solamente con il governo, cioè la questione della chiusura delle scuole ha a che fare con le responsabilità di tutti i livelli amministrativi, il livello nazionale e quindi il governo, il livello regionale, regioni che dovevano avere un ruolo di coordinamento e di gestione della parte dei trasporti, e il livello comunale. Nelle grandi città mi sarei aspettato che durante l'estate i sindaci si organizzassero e iniziassero a pianificare insieme alle scuole e alle aziende dei trasporti, che in gran parte sono comunali, come strutturare il sistema per far sì che i ragazzi rientrassero in classe in sicurezza. Tutto questo non è avvenuto dalla testa, ossia dal governo, fino ad arrivare ai comuni. Questo per come la vedo io, l'impressione che ho, e non è per togliere responsabilità a qualcuno, ma mi pare che molti non abbiano fatto quello che doveva essere fatto. Il presidente del Consiglio Conte ne parla come di un po' come di chirurgia estetica, sul fronte delle regole che avremo per Natale. Sentiamo. Abbiamo già predisposto, a dire il vero, come sapete, un piano per dedicate specificamente alle festività natalizie, però anche alla luce dei suggerimenti del CTS, il nostro comitato di esperti, forse qualche ritocchino, qualche ulteriore misura aggiuntiva la stiamo per introdurre. Adesso ci stiamo riflettendo in questi giorni. Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata. I ritocchini. Allora, proseguiamo il nostro ciclo. Ieri ci siamo occupati appunto di trasporti, per gli ascoltatori che fossero interessati a capire lo stato dell'arte, perché stiamo dicendo, il ragionamento che stiamo facendo è questo. A gennaio ripartiamo, ma ripartiamo come? Siamo pronti a ripartire a gennaio oppure no? Oppure ci sono tutta una serie di cose da tenere presenti. Il primo capitolo è quello dei trasporti. Da ieri, se volete andare ad ascoltare il podcast, abbiamo capito che forse non siamo proprio prontissimi. Si stanno riunendo i tavoli in questi giorni per capire come organizzarli. Dal lato della medicina di base, ossia dei medici di famiglia, siamo pronti oppure no? Renzo Lepera, vice segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, buongiorno, e la domanda per lei, vada, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo pronti? Noi siamo pronti, veramente stiamo continuando più che essere pronti, perché si parla di terza ondata, ma la sensazione che abbiamo noi è che siamo in piena ondata, poi che sia la seconda, la terza, speriamo che finisca quello che c'è. Ma siete la medicina di base è in grado di gestirla? Cioè quest'anno ci sono stati, con questa pandemia ci sono stati tutta una serie di problemi che hanno riguardato anche il vostro mondo, tra cui anche una serie di persone che se ne sono andate, per esempio, in pensione, no? Quindi certo. i buchi di assistenza e via dicendo. Come siamo messi? Allora, come siamo messi? Io credo che sia necessario un piccolissimo quadro generale. Si è parlato moltissimo e anche giustamente del quadro dei ricoverati, dei pazienti molto gravi. Quello che c'è da avere presente è che se quando si parla di 30.000 pazienti ricoverati, dietro ce ne sono almeno 700.000 che non sono ricoverati, che hanno condizioni di gravità inferiore, ma che sono assistiti. i problemi che avevamo prima, cioè del ricambio generazionale, c'è. Tenga presente che moltissimi di noi hanno continuato a lavorare anche se giunti all'età della pensione. Proprio per adeguarsi a una situazione eccezionale di emergenza e che stiamo affrontando. Non è per essere ottimisti, sì. È un quadro della situazione. No, ma benissimo. Guardi, se lei mi dice che siamo tranquilli, che ripartiamo a gennaio e i medici in medicina generale si sono riusciti a organizzare e riescono a gestire quella che è più o meno la normalità, io sono solamente... No, non parliamo di normalità in una situazione del genere. Noi stiamo affrontando una situazione di emergenza. E senza falsa modestia penso che la stiamo affrontando al meglio delle possibilità. Non è il momento di polemica, si poteva prevedere meglio, si poteva far meglio, ma la stiamo affrontando. Io credo che i discorsi organizzativi, come tutti i grossi discorsi, vanno affrontati non sulla spinta emergenziale. Nella spinta emergenziale ci si organizza. I medici di famiglia, come tutti gli operatori di sanità pubblica, si sono adeguati, hanno raddoppiato, se non triplicato, le ore di impegno, lavorano spessissimo anche nei giorni di teorico riposo proprio per affrontare questa situazione. Poi tenga presente che ci sono 20 servizi sanitari nazionali in Italia, sì. In pratica, perché ogni regione c'è chi ha supporti maggiori, c'è chi ha supporti minori, e probabilmente la riflessione a bocce ferme, situazioni migliori andrà fatta a posteriori facendo tesoro dell'esperienza. Sì, a proposito, la gestione sul territorio dei contagiati da Covid-19, le regioni l'avrebbero dovuto affidare alle cosiddette USCA, no? Che sono delle unità territoriali, certo. Unità sanitarie di continuità assistenziale, se non vado errato, questo per sciogliere l'acronimo. Molte regioni sono rimaste indietro su questo fronte. Quanto si è scaricato su di voi? Le pera e quanto temete che si scarichi su di voi, continui a scaricarsi su di voi? Si è scaricato su di noi un quadro di un'emergenza. Poi dove ci sono le USCA per la gestione domiciliare le cose vanno meglio. Le USCA sono un'emanazione della medicina generale, non sono degli parziali caduti del cielo. E certe regioni ne hanno attivate di più, certe regioni ne hanno attivate di meno. Dove se ne sono di più, funzionano meglio e la gestione è migliore, tenga presente che non è che il problema delle USCA è quello di seguire i pazienti a domicilio, perché noi ci siamo attrezzati con telefoni, mezzi informatici per avere un contatto continuo e un monitoraggio, si dice per evitare i ricoveri, si dice per ricoverare invece i pazienti che ne hanno bisogno, e mantenere al domicilio quello che non ha bisogno del ricovero ospedaliero. Questo è il tentativo e questo sta funzionando meglio dove ci sono le USCA attivate, secondo certo. Poi quelli che sono i decreti, non in più o in meno. Sì. In molte parti non sono state attivate. E le situazioni più critiche, le pera? In quali regioni? Allora, sono sempre le solite, perché i parametri sono gli stessi, non sono legati solamente al numero, ma al numero dei supporti. Uno dei parametri sappiamo che se il numero percentuale è alto, ma i supporti ci sono, la gestione è meno critica, laddove anche in presenza di numeri più bassi, ma senza i supporti, la situazione è più critica. Quindi, però il sistema sta tenendo, regge, ecco. Il sistema tiene, dice lei. Va bene, la ringrazio. Grazie a Renzo Lepera, vice segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buon lavoro anche a voi. Grazie, buon lavoro. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.